Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna. Benvenuti ad Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna che racconta le attività dell'Assemblea Legislativa Regionale. In studio Isabella Scandaletti e Margherita Giacchi. In questa puntata, il piano energetico regionale, l'udienza conoscitiva sul bilancio regionale per il 2023 e alcuni dei question time presentati in aula. Ma partiamo con la legge regionale per la tutela dei cimiteri monumentali. Luoghi di sepoltura e di memoria, ma anche contenitori di arte e cultura. I cimiteri storico-monumentali dell'Emilia Romagna hanno ora una legge che li tutela. La Certosa di Bologna e quella di Ferrara, San Cataldo a Modena, la Villetta di Parma, sono solo alcuni dei cimiteri considerati culturalmente significativi sul territorio regionale, in tutto circa 80 realtà. L'Assemblea Legislativa ha approvato a maggioranza la norma per valorizzare questo patrimonio diffuso. Sentiamo il relatore di maggioranza Federico Amico di Emilia Romagna Coraggiosa. Prima legge sui cimiteri monumentali e significativi promossa da una regione, quindi speriamo anche che sia di esempio e di stimolo anche per altre regioni, per dire che i cimiteri monumentali hanno un significato non solo storico e di memoria, ma anche un valore di patrimonio artistico e architettonico molto importante. Grazie alla nuova legge, i siti che rientrano nella rete dei cimiteri monumentali e storici dell'Emilia Romagna potranno avere accesso a finanziamenti regionali per progetti di restauro e conservazione delle strutture architettoniche, decorative e monumentali per progetti di valorizzazione. Gli stessi siti, ha spiegato in assemblea l'assessore alla cultura Mauro Felicori, verranno anche inseriti in un percorso culturale storico, caratterizzato da segnaletica e logo, e potranno poi godere di visibilità nazionale e internazionale grazie alle pubblicazioni e alle iniziative promosse dalla stessa regione. Voto di astensione della Lega. Il relatore di minoranza Massimiliano Pompignoli ha criticato il principio, inserito nella legge, che si rifà alla Convenzione Quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, convenzione firmata a Faro nel 2005. E ratificata dall'Italia nel 2020. È una legge approvata oggi assolutamente condivisibile nei contenuti, nei concetti, macchiata da un'impronta ideologica che è la Convenzione di Faro, cioè ombre e luci su una possibile censura del patrimonio artistico che questa convenzione comunque ha nel suo articolato. Metterla nei principi fondamentali ha macchiato ovviamente una legge ed è per questo che noi ci siamo astenuti. L'Assemblea approva le modifiche al piano energetico regionale al 2030, ridisegnando le strategie per il prossimo triennio. Si punta ad avere meno emissioni e più energia da fonti rinnovabili. Il piano potrà contare su risorse pubbliche per 4,5 miliardi di euro. I fondi 2022-2024 prevedono poco più di 2 miliardi di euro dal PNRR, ulteriori risorse dallo Stato per 1,7 miliardi, 359 milioni da fondi europei e 423 milioni dalla regione. Ecco la valutazione di Giulia Pigoni della lista Bonaccini. Penso che alcuni dei punti che abbiamo voluto sottolineare siano focali, quello sul gas metano come indispensabile per la transizione energetica ed ecologica, quello sulla formazione all'interno degli ITS per costruire una vera cultura energetica nelle nuove generazioni, quello sul monitoraggio che deve essere costante non soltanto alla fine e alle scadenze. Più critico il relatore Emiliano Occhi della Lega, il suo partito ha deciso di astenersi. È un piano che contiene tante cose interessanti, tanti obiettivi anche di difficile realizzazione. Quello che manca è una parte che spieghi come raggiungerli e una parte che spieghi come gli obiettivi presenti non sono stati raggiunti e quali sono eventualmente i colli di bottiglia che ce lo hanno impedito e come fare per risolvere questi colli di bottiglia. Il Partito Democratico sottolinea l'importanza e la bontà del piano e parla di una sferzata rispetto al passato. Sentiamo Gianni Bessi. Noi puntiamo molto sul risparmio energetico perché dobbiamo gestire meglio le risorse che abbiamo e sull'innovazione che è il principal modo puntare sulle rinnovabili di nuova generazione. Astenuto anche il gruppo di Fratelli d'Italia, per il quale le soluzioni possono essere trovate più dal governo che dalle regioni. Ecco cosa ha dichiarato Gianni Carlo Tagliaferri. È un argomento ministeriale, quindi di concerto col Ministero e poi con le realtà internazionali, in particolare con l'Europa, occorre portare avanti tutta una serie di iniziative. Mi auguro che questi bandi che nasceranno da questo atto amministrativo possano aiutare le imprese e i cittadini emiliano-romagnoli. Voto favorevole da Silvia Zamboni di Europa Verde, che in un ordine del giorno approvato dall'Aula ha chiesto anche che si adottino provvedimenti per installare pannelli fotovoltaici nelle aree di parcheggio. Europa Verde ha portato dei miglioramenti a favore, per esempio, del progetto di Riviera Adriatica eolico-solare, anche come brand turistico, poi l'installazione di pannelli fotovoltaici sui parcheggi, seguendo una norma che sta per essere adottata in Francia, che è già stata approvata dal Senato. Il bilancio regionale 2023 e triennale 2023-2025 ha iniziato l'iter di approvazione in Commissione Bilancio per arrivare al voto in Assemblea entro fine anno. Nel corso di un'udienza conoscitiva, i rappresentanti di Confindustria e dei sindacati confederali hanno portato le loro osservazioni alla manovra. Marina Ballestrieri di CGIL Emilia Romagna, intervenuta anche a nome di CISL e UIL, ha apprezzato che la Regione voglia utilizzare proprie risorse per garantire la tenuta della sanità regionale, ma proprio per questo, ha detto, non condividiamo la decisione del Governo di non procedere ad aumentare il Fondo Sanitario Nazionale, pur a fronte dell'aumento delle spese per il Covid. Forte preoccupazione per la tenuta del sistema sanitario si colgono anche nelle dichiarazioni del direttore di Confindustria Emilia Romagna, Gianluca Rusconi, che ha anche espresso apprezzamento per i fondi che la manovra regionale riserva agli investimenti e al mantenimento dei servizi, con le tasse che rimarranno invariate. Da Confindustria anche un allarme sugli effetti del payback, una sorta di rimborso chiesto alle aziende fornitrici di dispositivi medici sugli sforamenti dei tetti di spesa per la sanità della regione. Per l'Emilia Romagna il piano di rientro sarebbe di 170 milioni. Il tema è particolarmente allarmante, segnala Confindustria, perché in Emilia-Romagna c'è il 30% del totale delle aziende biomedicali italiane. Le preoccupazioni per gli effetti del payback sulle aziende e sui lavoratori del distretto biomedicale sono state portate in aula anche in un question time presentato da Michele Facci della Lega assieme ai colleghi Daniele Marchetti e Matteo Rancan. Il payback per dispositivi medici è una legge dello Stato, ha dichiarato l'assessore Raffaele Donini. Si tratta quindi di un atto dovuto. Donini si è detto comunque favorevole alla convocazione urgente di un tavolo nazionale condiviso con governo, regioni e imprese che approfondisca la tematica e che possa andare incontro alle ragioni delle realtà imprenditoriali del settore. E per rimanere in tema sanità, in un question time Silvia Piccinini del Movimento 5 Stelle ha chiesto alla Giunta di conoscere le tempistiche per la riapertura del pronto soccorso dell'ospedale Magati di Scandiano in provincia di Reggio Emilia. Sentiamo Piccinini. Ci sono due temi però su cui ho insistito. Uno è il ricorso al personale privato e quindi c'è tutto un tema appunto di qualità del lavoro e io spero che questa sia una misura temporanea. E il secondo tema è la riapertura H24, perché c'è stata assicurata una riapertura dalle 8 alle 20, ancora non ci soddisfa. Con riferimento all'Appennino bolognese, al fine di scongiurare il rischio di isolamento per gli abitanti delle vallate del Reno e del Setta, Marco Mastacchi di Rete Civica ha chiesto all'esecutivo regionale quale iniziativa intenda assumere per accrescere la sicurezza del territorio montano e per mantenere le condizioni ottimali di viabilità. Ho chiesto all'assessore intanto di trovare soluzioni per le problematiche immediate, che sono principalmente la ruppe di Sasso Marconi, ma in particolare di trovare una modalità di lavoro che consenta una pianificazione che risolva tutte le problematiche della montagna che in questi ultimi anni si sono concentrate. Nel suo question time, Giulia Gibertoni del gruppo Misto ha invece chiesto alla Giunta di riferire sulle azioni in programma per la preservazione del lupo sul territorio regionale. Ogni 2-3 anni ci sono ondate di richieste di uccisioni dei lupi che invece vanno preservati. Mi è stata data una parziale garanzia in questo senso, ossia di continuare verso la preservazione del lupo e di fare informazione contro l'allarmismo per quei cittadini che si fanno prendere appunto da facili ondate mediatiche che non hanno nessuna scientificità. Siamo al termine della nostra puntata. Per rimanere aggiornati sulle attività dell'Assemblea Legislativa, seguiteci sui profili social e sul sito assemblea.emr.it. Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna, programma a cura del Servizio Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna. In redazione Margherita Giacchi, Andrea Perini e Isabella Scandaletti. Contributi audio di Davide Landi, Agenzia Dire, direttore Mauro Sarti.